Iniziamo chi ha tempo, non aspetti tempo, anche se purtroppo c'è stato un traslare per questa edizione di Art City. Siamo con il direttore artistico Lorenzo Balbi, un piacere ritrovarci. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno, ciao, piacere mio. Allora, puoi darci un pochettino anche di linee in seguito a questa posticipazione? Sì, in realtà è stato anche accolto come una sfida. Eravamo pronti per gennaio, poi ovviamente le situazioni legate alla pandemia, anche le scelte della fiera più cautelative di trasferirsi al mese di maggio ci hanno dato l'opportunità di ripensare il programma, aggiungere degli eventi, quindi e anche speriamo di poter usufruire di una settimana dell'arte all'aperto completamente, con orari prolungati, un bel clima e passeggiate sotto i portici, perché sicuramente in questa stagione Bologna dà il meglio di sé e anche dal punto di vista della fruizione degli eventi abbiamo puntato moltissimo su eventi all'aperto e anche su eventi che possano, come il grande evento speciale di Tino Segal, in qualche modo ridefinire la relazione tra le persone, finalmente ritrovarsi in piazza, farlo attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea, lasciandosi incuriosire da questa settimana dell'arte che si annuncia veramente scoppiettante, con tanti eventi. La mappa degli eventi quest'anno veramente trabocca tra il programma principale, quindi l'evento speciale di Tino Segal, più tutti i main project che costellano la città e tutte le iniziative, gli spazi privati, pubblici, le gallerie d'arte contemporanea, che veramente quest'anno non si sono risparmiati e c'è un'offerta veramente molto sfaccettata e ampia. Io ho capito questo spostamento anche per prendere tempo, esatto. Perché con tutte queste cose... Abbiamo preso il buono che questo spostamento poteva darci, che è soprattutto avere avuto più mesi anche per ripensare molti eventi. Ovviamente quello che si pensava, sembra tantissimo tempo fa, ma quello che si pensava a gennaio si pensava con capienze limitate, distanziamenti sociali, barriere, la non possibilità al chiuso di fare eventi sopra un certo numero di persone. Adesso fortunatamente la situazione è migliore dal punto di vista di fruizione degli spazi, anche delle regole che determinano queste fruizioni, e quindi si è potuto dare spazio anche ad artisti per osare un po' di più. Certo, che profumo Bologna di sera, le sere di maggio. Non sono un amante della musica italiana, ma hai detto bene, è una stagione per la nostra città che da queste fioriture, che con il miscuglio di profumi è un piacere farsi invadere da queste micro sensazioni. Non dimentichiamo che Art City, Arte Fiera, in passato, negli anni 70, quando la prima fiera d'arte moderna e contemporanea italiana, appunto Arte Fiera, fece le sue prime edizioni, proprio si collocava in questo periodo, nel periodo tardo primaverile, fino ad arrivare alla fine degli anni 70, alla prima settimana di giugno, che era costellata dalle mitiche settimane internazionali della performance. Certo, e se vogliamo addentrarci in una specificità per quanto riguarda, è come chiedere insomma chi è il tuo giocatore preferito, cioè è una domanda veramente un po' così, però, ma non proprio, che ti viene in mente in questo momento che stai parlando con me? Assolutamente, è difficile perché appunto, dicevo, è un programma talmente ampio che è difficile categorizzare, però se c'è un trend che posso delineare, che possa in qualche modo dare una lettura trasversale di quello che ci aspetta, è proprio un'edizione di Art City che bada alla relazione con le persone. Okay. Sembra che nelle urgenze degli artisti contemporanei si denoti una volontà, una capacità di indagare questo rinnovato modo di stare insieme, perché è gioco forza dopo due anni in cui siamo stati da soli, abbiamo ridefinito i nostri modi anche di vivere lo spazio pubblico, di stare in relazione, anche di stringersi la mano, baciarsi sulle guance. Certo. Questo è sicuramente un ambito che evidentemente rientra negli interessi degli artisti contemporanei e moltissimi dei lavori che sono presentati all'interno di Art City indagano proprio questo aspetto relazionale, questa idea di voler poter sperimentare nuovi vecchi modelli di relazione. E se vogliamo qualche novità tra virgolette nelle sedi espositive o gallerie, anche qui ce ne saranno diverse immagino, però insomma ci sono moltissime novità. Ci sono delle mostre che vivono una seconda fase, come la mostra di Italo Zuffi del Mambo, che ha una seconda vita, una seconda sede alla Banca di Bologna, con solo nuove produzioni che la Banca di Bologna insieme al Mambo sono riuscita a commissionare a questo artista, insieme a tutte le iniziative che le fondazioni private, le gallerie fanno, però c'è una novità che è un trend interessante che sta sviluppando Art City anche all'interno della città metropolitana. Cioè ci rendiamo conto di come sempre più comuni, spazi sì. al di fuori delle mura, come si dice a Bologna, più periferico, esatto, stanno rispondendo presente alla chiamata di Art City, e questo ci spingerà probabilmente dalla prossima edizione proprio a varare un progetto di Art City metropolitano e quindi allargare i confini, diciamo, di questa iniziativa, e questo ci fa molto piacere. Anche a me, che sono favorevole a questo inserimento della periferia, che può essere anche sì, palcoscenico interessante. Il tema delle periferie è un tema molto presente sì. anche nell'indagine artistica, definire dentro, fuori, se ci sono confini, se ha senso ancora parlare di centro e periferia, della gentrificazione come fenomeno globale. Ce n'è da dire. Ce n'è moltissimo da dire, Bologna ha sicuramente molto da dire in questo, con i tentativi fatti in passato anche di urbanizzazione, e soprattutto i comuni dell'area metropolitana stanno dimostrando con le loro progettualità di essere molto vicini agli stimoli di Art City, ospitando artisti in residenza, curando mostre, aprendo spazi anche, e questo oltre a farci molto piacere perché aumenta l'offerta, aumenta la visibilità, aumenta le possibilità di nuovi pubblici, ci insegna di come la città possa anche crescere nel solco della sperimentazione in ambito di arti visive contemporanee. Bene, dopo questa chiacchierata ti do l'autorizzazione, si può iniziare. Che Art City inizia, vi aspettiamo tutti dal 7 al 15 di maggio. Grazie Lorenzo. Grazie a voi.